lights are on. Stiamo rimettendo a posto i pezzi in leggero ritardo per l'omaggio che è stato tributato a un pezzo di storia di questa radio, e quindi giustamente e molto piacevolmente abbiamo concesso anche un minimo di minutaggio. Inizia prove tecniche di trasmissione, abbiamo anche qui un illustre ospite che è Valerio Michetti della Grazia Obliqua e Faith to Grace, progetti che avete sentito sovente da queste frequenze, sia in prove tecniche di trasmissione, in disorder, insomma in tutte quelle, in quegli spazi che ben conoscete. E chiaramente vi rigiro il suo saluto. È venuto qua perché stavamo parlando di Humanimal, la sua avventura industrial insieme a Cornelio Basilisco, Sirena Velena. E chiaramente Alberto Clipper. Li salutiamo nel caso siano all'ascolto, come vado a salutare Maya in Sardegna, al pari di Nicola Locci di Stigmate. E poi il medico della peste, Mariano Mirdia, in quel di Berlino. Massimo Mascherone di Others, Lucia Cagliazza di Lupsi, Francesco Cornello in quel di Bergamo. Alessandra e Giulia qui da Roma, Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Enrico Ponzoni di Sokon Shibutsu Project, speriamo di vederli qui a Roma. Enrico Cerrato di Petrolio. E abbiamo anche Like a Wake, pezzo di storia ambient qui di Roma, Urnus Aylin, l'industrial piemontese. Saluto anche Alessandro Ragazzo, che ci ascolteremo più tardi, e rigiro anche i saluti di varie persone a cui il presente Valerio Michetti, compresa Alessandra Trinity Bersiani, anche lei è della Grazia Obliqua e Faith to Grace. Allora, cominciamo con un progetto di ispirazione più o meno dark ambient che proviene dall'Inghilterra e che per un breve periodo ha anche bazzicato l'Antzen, etichetta che suoniamo spesso da queste parti. Si chiama Eve Tree e dopo molti anni finalmente è tornato con un secondo lavoro dal nome A World Within. E allora ci ascoltiamo le prime due tracce, Fading e la seconda dal nome End. sicuramente atmosfere sospese, sicuramente dilatate, ma soprattutto oniriche. È questo che mi ha provocato come sensazione questo nuovo lavoro di Eva Tree, A World Within. Lui in realtà si chiama Paul Lavigne, proviene dall'Inghilterra, probabilmente da Londra, e lo avevamo lasciato con The Great Divide, l'esordio targato il 2007 attraverso la Fick Art, una diciamo consorella dell'Ante Zen e quindi di teutonica origine. E quindi in un certo senso si è attuata una trasformazione del suono e degli intendimenti di questo musicista. Ricordo che esce per l'Ant Zen. Rimaniamo su cose abbastanza dilatate, già dal nome di questa compilation, Throne Islands, si possono intuire gli intendimenti che ha portato Raffaele Pezzella ad assemblare molti artisti, e ideando questa compilation con riferimenti astronomici di stelle, pianeti, costellazioni. L'album, questa compilation, esce per la 8 Tower, realtà parallela alla ben più famosa Unexplained Sound. Però cominciamo con un progetto romano dal nome Nihil Impulse di Francesco Di Stasio, che abbiamo già conosciuto in passato con due suoi album. La traccia in questione porta il nome di At the Springs of Void. E dunque lui era Francesco Di Stasio, in arte Nihil Impulse. E anche con il buon Valerio si parlava delle attinenze con la Cosmic Music, i Corrieri Cosmici degli anni 70, il Kraut Rock, che pervade questa ed altre tracce. Ancora dalla medesima compilation ci ascoltiamo un artista proveniente dalla Grecia. Lei si chiama Veronica Moser e questa è Supernova. Allora, ci siamo sollazzati anche questa sera con un paio di passaggi riguardanti la compilation di Raffaele Pezzella della 8 Tower. La 8 Tower è, come ho già detto, parallela alla Unexplained Sounds Group. E adesso arriviamo qui in Italia e lo facciamo con un artista al femminile dal nome She Spread the Sorrow, dietro il cui progetto si nasconde Alice Kundalini, anche questo chiaramente è uno pseudonimo. Atmosfere misteriche ma anche contaminate con il rumore, con il concetto di rumore. Il tutto si può godere anche dentro questo Huntress, quarto lavoro per She Spread Sorrow. E questa sera cominciamo con l'ascoltarci Blue e la seconda traccia dal nome Get Me. Thank you. si chiama Outress, ultimo lavoro per quanto riguarda She Spread Sorrow di Alice Kundalini. Saluto anche a Gianluca Becuzzi, Daniele Ciullini, e con Becuzzi si rifletteva sul fatto che la She Spread Sorrow incide anche e soprattutto con la Cold Spring, quindi è un risultato non indifferente, un'etichetta tra le più note per quanto riguarda questo tipo di sonorità. Uno dei pochi esempi al femminile, ahimè, di questo tipo di suono. Saluto anche Noise Cluster con Flavio Derbecante, Arianna Degni Lombardo, Jean-Claude Berthaud dalla Val d'Aosta. Ancora Italia, ce ne andiamo nel nord-est, andiamo dalle parti di Venezia, lo facciamo con Alessandro Ragazzo. E qui ci spostiamo nel campo invece della Fields Recording, la registrazione sul campo di rumori varia, di varia natura. Però Corpore Absence è arricchito con un succosissimo fascino gotico che permea l'intera opera. Divisa in 5 movimenti, ci ascolteremo il secondo, peraltro in prospettiva ci sono anche 2 tracce che hanno il loro interno dei canti Veda, ossia dei canti d'origine indiana, che rendono il tutto veramente, veramente accattivante. Per adesso ci ascoltiamo la prima parte del secondo movimento, un secondo movimento che dura ben 15 minuti e quindi mi vede costretto a spezzettarlo in 2 volte. Thank you. E questa era la prima parte del secondo movimento contenuto in questo Corpore Absens per Alessandro Ragazzo. Una delle realtà più interessanti per un tipo di arte, la Field Recordings, è abbastanza difficile da applicare, che se ne dica. C'è perizia, creatività. E quindi belle queste stratificazioni, queste microfrequenze. La seconda parte di questo secondo movimento ce l'ascolteremo mercoledì prossimo. E adesso veniamo alla collaborazione riuscitissima tra Noise Cluster di Arianna Dini Lombardo e Flavio Derbecante e Nicola Locci di Stigmate. Hanno partorito questo lavoro proprio all'inizio del 2022 dal nome Extreme Sleepwalking, e quindi si parla di sonnambulismo. Una lunga gestazione che però ha dato vita a un prodotto artistico veramente notevole, e ne apprezzeremo altre due porzioni, esattamente Death Vision parte 2 e la successiva Dim Light.